buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolinea è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. Essendo giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. Dell'anno per noi qui a Attica Blues, e come dire, vogliamo cominciare con una specie di rubrica nuova che cureremo un po' per tutto l'anno. Eh sì, benvenuti, buon anno, e con questo 2022 iniziamo appunto una nuova rassegna, possiamo dire così, dedicata ai più grandi compositori del jazz. Li omaggeremo attraverso i brani rivisitati e reinterpretati dagli altri grandi jazzisti. Come primo compositore abbiamo scelto uno dei grandissimi, diciamo, uno di quelli che veramente se l'è scialata, i cui pezzi sono diventati standard, a rotta di collo. Anche se poi in realtà, se consideriamo, sì, parliamo innanzitutto di John Coltrane, e possiamo notare anche che l'arco di tempo in cui è stato lui band leader non sono più di 10 anni. Lui ha iniziato il primo disco da solista nel 1958, poi è morto nel 1967, però in questi 9 anni ha veramente sfornato tantissimi brani che poi sono diventate delle vere e proprie pietre miliari del jazz. Allora, cominciamo subito continuando con Archie Shepp. Esattamente, perché Coltrane fu colui che portò Archie Shepp alla Impulse, la casa discografica che ha reso grandissimo proprio John Coltrane, e Bob Tyle, che era il produttore di questa splendida etichetta, convinse Archie Shepp a fare proprio un album tributo a John Coltrane, proprio per sfruttare quel successo commerciale che in quegli anni Coltrane aveva. Era il 1964, il 10 agosto, Coltrane era vivo e Coltrane produsse questo album dal titolo For Train. Noi ci andiamo ad ascoltare Sieda Song Flute, per una formazione che vedeva Archie Shepp al tenore, John Tikikai al contralto, Roosevelt Root al trombone e poi il bassista di Coltrane, Reggie Workman, al contrabbasso, e il batterista di Ornette Coleman, Charles Moffett. ne dirà un altro. E sì, tra l'altro c'è anche un bel aneddoto da raccontare rispetto a questa registrazione. Infatti erano gli studi di Rudy Van Gelder proprio nel registrare questo disco, e Archie Shepp chiamò proprio John Coltrane per fargli sentire in anteprima queste registrazioni. Però evidentemente era notte, perché Coltrane fu svegliato e andò subito negli studi di Rudy Van Gelder. Ma a testimonianza appunto di questo, nella fretta nell'uscire di casa, c'è la foto che testimonia questo incontro, e Coltrane era senza calzini. Cosa che capitano pure nelle migliori famiglie. Però ne valeva la pena, dai. Ma sì. Davvero un bellissimo disco, questo è un omaggio davvero sentito di Archie Shepp. E da 4 per Coltrane passiamo a 9 per Coltrane, infatti. Ci ascoltiamo l'omaggio di Joe Lovano e il suo nonetto live al Village Vanguard in un concerto registrato il 29 settembre del 2002. La traccia che abbiamo scelto è After the Rain. On This Day at the Vanguard è il titolo di quest'album. Mm-hmm. Giolovano, passiamo a Dave Liebman in un disco uscito per la ECM nel 1964 dal titolo Drum Ode. Ed è proprio una formazione tipica dell'ECM, che poi in realtà musicisti anche abbastanza distanti dal suono e dalle ambientazioni di John Coltrane. Parliamo di John Abercrombie alla chitarra, Barry Ashton alle percussioni, Richie Behrensch al piano e poi ancora Bob Moses alla batteria, Colin Walcott alle tablas e Gene Perla al contrabbasso. Una formazione, un sound che ricorda anche molto da vicino quella degli Oregon. Eh sì, un brano speciale, un brano che si intitola Your Lady. Thank you. tutti i brani a firma di John Coltrane e non anche quegli standard che poi lui ha fatto propri. Mi viene in mente uno su tutti, My Favorite Things, ma nella puntata di oggi passeremo tutti i brani proprio composti da questo splendido musicista. Ma sì, diciamo che la capacità compositiva è qualcosa che si riconosce proprio, che è insito nel musicista e che lo caratterizza. Quindi sì, sì, per poi... questo abbiamo scelto di fare questa rubrica in modo proprio da mettere in evidenza le capacità proprio dei singoli compositori. E in questo caso anche le innovazioni che hanno apportato alla musica. Allora, noi continuiamo ancora con la ECM, sia in questo brano che nel prossimo. Questo brano che è a firma di Jack DeJohnette, qui in compagnia di Ravi Coltrane, il figlio di John Coltrane, e Matthew Garrison, che era a sua volta figlio di Jimmy Garrison, che era il contrabbassista storico del quartetto di John Coltrane. L'album si chiama In Movement e il set inizia proprio con la classica composizione dei diritti civili Alabama. John Coltrane infatti ha incluso in questo brano nel suo album Live a Birdland, ma era l'unico brano che non era live, per un brano che venne scritto proprio in risposta alla strage che aveva avuto luogo il 15 settembre 1963 durante un attentato razzista ad opera del Ku Klux Klan all'interno di una chiesa battista a Birmingham in Alabama, e nel quale erano rimaste uccise 4 bambine. McCoy Tyner, il pianista di John Coltrane, riferì proprio la genesi del brano, che aveva avuto origine da una fonte scritta, e cioè dal discorso tenuto da Martin Luther King sulle 4 bambine decedute nell'attentato di Alabama. Diceva McCoy Tyner, era sui giornali stampato, così lui, John Coltrane, aveva preso le forme ritmiche di quel discorso e le aveva trasformate in questo brano. aperto il film su Martin Luther King, la storia delle quattro bambine, l'attentato, insomma, c'è tutta la marcia. Un bel film, devo dire. E il jazz è stata sicuramente la colonna sonora proprio dei diritti civili nei primi anni 60. Senti, passiamo a Keith Jarrett, anche lui ha omaggiato John Coltrane. Ha omaggiato John Coltrane, rimaniamo ancora nell'ECM, l'etichetta bavarese fondata da Manfred Eicher. Eh sì, Jarrett su disco, proprio in questo Moment Notice live, in un concerto registrato il 14 novembre del 1998 in New Jersey. E poi appunto messo su disco, un disco doppio davvero bello, dalla ECM nel 2018. Il titolo del disco è After the Fall e appunto Keith Jarrett è qui in compagnia dei suoi fidati compagni Gary Peacock e Jack Dejonette ancora una volta. La seconda traccia dell'unico disco uscito per la Blue Note Records a firma di John Coltrane e il titolo era Blue Train. E Jarrett, tra l'altro, che non si esibisce più dal vivo, che si è ritirato dalle scene per un problema. Problemi seri, ai noi sì. Di salute, probabilmente non lo vedremo più. Più andare sui concerti e fare le foto col flash. Pensa tu proprio in questo periodo, poi che colpi di tosse ai concerti non se ne sentono, proprio perché è insomma un'arma di distruzione di massa. dal piano di Keith Jarrett passiamo a un altro pianista, lui è cubano con la sua prima registrazione ad essere pubblicata negli Stati Uniti ed rimane ancora una delle sue migliori. Parliamo di Gonzalo Rubalcaba, qui accompagnato dal bassista, dal contrabbassista Charlie Haden e dal batterista ancora una volta di Jack Dejonette. Allora, il brano si chiama Passi da Gigante, Giant Steps. Giant Steps, che fu anche il titolo del disco, che per diversi motivi fu davvero un'esperienza nuova per Coltrane. Siamo nel 1960 e fu il suo primo album registrato per l'Atlantic Records e il primo interamente costituito da proprie composizioni. Il brano che dà il nome all'album, ed è il brano appunto che Gonzalo Rubalcaba col suo trio esegue, è costruito su una progressione armonica basata su intervalli di terza maggiore. Ed eccolo qua appunto, i passi da gigante di cui si riferisce il titolo. E si tratta di una progressione insolita e di grande difficoltà per i solisti. Susanna e a Monica del nostro baretto di fiducia qui in via. Fedeli ascoltatrici, voglio proprio vedere, eh. Di questa piccola grande radio. We'll be right back. adesso passiamo a un trio d'eccezione, un trio bello swing per omaggiare Coltrane. Parliamo del bassista Stanley Clark, qui in compagnia del chitarrista Birel Lagren e del violinista Jean-Luc Ponty. E insieme si sono incontrati per la prima volta nel 2010 per celebrare proprio il 50° anniversario del violinista, e così poi nel 2015 hanno registrato questo D-Strings proprio per la Impulse Records, in cui era contenuto anche questo brano. Questo brano è un brano storico, parliamo di Blue Train. Siamo a un disco uscito lo scorso anno, nel 2021, si intitolava Pursuants the Coltranes ed era appunto un omaggio della sassofonista Lakasha Benjamin a sia John Coltrane che ad Alice Coltrane, che era la seconda moglie di John Coltrane. Un disco bello, un bel disco, e carico di ospiti, e lei tra l'altro è stata una delle artiste di punta della scorsa edizione del Roma Jazz Festival. Sì, il brano ci riporta all'Africa, inesorabilmente. E tutta la musica di Coltrane rimanda veramente inesorabilmente all'Africa, e qui l'ospite è il sassofonista Gary Bars. E allora, Lakasha Benjamin, che non è una tenorista, ma un'alta sassofonista. Liberia. Thank you. puntata di Attica Blues volge al termine, abbiamo giusto il tempo per ascoltarci un ultimo brano. E concludiamo con Harold Babern, un splendido pianista di Memphis. E concludiamo ancora con un live, tanti i live che abbiamo passato oggi. Sì, oggi sì, devo dire sì. Perché poi soprattutto dal vivo, no, che si omaggia un personaggio come John Coltrane. Beh, diciamo c'è la buona usanza anche nei dischi di mettere generalmente almeno un brano, almeno c'era una volta, adesso sempre meno, almeno un brano di un altro compositore, ma dal vivo comunque invece c'è l'omaggio. Dal vivo è inevitabile, inevitabile. Allora qui è un concerto registrato il 23 novembre e per 3 settimane nel 2018 al Live Club Smoke di New York, e appunto Harold Babern al piano, Eric Alexander al sax tenore, John Weber al contrabbasso e Joe Farnsworth alla batteria. Allora, il brano che abbiamo scelto per voi per chiudere questa puntata di Attica Blues è Dear Lord. Se volete ascoltare, riascoltare questa come una delle altre puntate, delle altre monografie di Attica Blues, le trovate sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info. E vi ricordiamo come al solito anche le nostre pagine social, ci trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram e anche su Spotify, dove invece troverete una ricchissima playlist, ormai siamo più di 120 ore di musica nera che più rappresenta questa trasmissione. Come va ascoltata la playlist? Ovviamente rigorosamente shuffle, non selezionate mai i brani. Let it flow, come si dice. Allora ci sentiamo giovedì prossimo faremo un'eccezione, diciamo, e continuiamo questa rubrica, faremo la seconda puntata perché è sempre su John Coltrane. Eh sì, perché nel preparare questa, cioè veramente sono rimasti fuori un sacco di brani, poi è una nuova rubrica, quindi insomma andiamo avanti ancora con i grandi artisti del jazz che omaggeranno John Coltrane. Per la diretta sempre il giovedì, sempre dalle 4 alle 5, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e sempre Attica Blues. Buon weekend.